Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Due di denari. Il programma che informa con autorevole leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto. Non avere macigni sul cuore. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Serpente corallo fa il suo ingresso trionfale in Parlamento. Signori e signori, ecco qua l'interrogazione parlamentare sui serpenti corallo. Esatto, presentata da Sestino Giacomoni e Maria Stella Gelmini. Ma bravi! I quali, non so se ascoltando il programma quest'estate, Serpente Corallo, ma certo, o sintonizzandosi su Radio 24, su Due di Denari, non saprei dire. Mi sembra un presupposto fondamentale, formidabile. Oppure perché si sono ricordati di quella volta che sono venuti al concerto dei Chapter 11. Insomma, qualsiasi sia stato il motivo, dicono, ma scusate, ma con tutte queste truffe che ci sono online, con tutta questa attività della Consob che continua a... Oscurare siti, a intervenire perché ci sono siti truffaldini, ma non sarebbe il caso magari addirittura di vietare il trading online o comunque di varare delle misure che lo limitino fortemente? Che dici, Deborah? Forse vietarlo? Allora, sicuramente lo spirito dell'iniziativa è nobile e è apprezzabile, e anche noi siamo ben contenti che finalmente qualcuno si sia accorto del fatto che, peraltro, il fenomeno dell'abusivismo in rete dei servizi finanziari è esploso nel periodo del lockdown, lo segnalava il collega Marco Mobili. Appunto, c'è questo censimento continuo di tutte queste iniziative truffaldine, reti nelle quali molti cadono, e in molti, chiaramente, avendo qualche difficoltà economica, hanno ben pensato di fare qualche straordinario attraverso l'attività appunto su queste piattaforme con le quali in realtà si perde e basta. Però ieri notavo su qualche blog, su qualche social, che gli operatori del settore, quindi trader professionali, sono un po' preoccupati di questa iniziativa, perché non vorrei che passasse il messaggio colpirne uno per colpirne 100, però in questi 100 poi ci sono anche operatori qualificati che magari vedranno un po' compromessa la loro attività e anche la ricerca dei loro servizi da parte di clientela che vuole operare con piattaforme in maniera professionale, e quindi bisognerà stare anche un po' attenti su quello che sarà il percorso di questa iniziativa parlamentare, direi. Credo che però poi un grande aiuto potrebbe venire proprio dall'essere tutti noi un pochino più avveduti. Insomma, quando ci promettono guadagni mirabolanti, ecco, se sappiamo, per dirne una, è sempre sui giornali di oggi, che il BTP a 30 anni ti paga, mi pare, 1,75%, il minimo storico, livelli mai visti. Ecco, allora è molto difficile che, se un investimento in un titolo di Stato a 30 anni paga così poco, ecco, è molto difficile che ci siano degli investimenti che promettono il 10 o il 20%. A un anno, a sei mesi magari. Addirittura, ecco. Qualcheduno ragiona a livello mensile, mesi. Esatto. Sì, ecco, diciamo che è molto difficile, non si può dire che è truffaldino tout court, però è difficile. Allora, sono rendimenti insostenibili questi. Mentre noi oggi parleremo di investimenti sostenibili. Ma dai, guarda. Ma che legame casualmente, che hai fatto. Guarda, un applauso. Un non so assist, se non voglio Gianmarco parlare Ferrona, di calcio. Abbiamo un applauso. Sei stata decisamente più brava di quel giocatore lì che smettila, doveva venire a Gianmarco, giocare. Gianmarco, manda subito qualche sigla, oscura immediatamente queste dichiarazioni. Torniamo seri, perché censura. Allora, oggi è giovedì. Giovedì, investire informati. Investire informati, ma investire informati in investimenti che siano sostenibili, cioè con i criteri ESG. Questa sigla oramai ce la sentite dire da un po', noi stessi la sentiamo dire nei convegni, negli incontri, nei webinar. Significa ambiente sociale, rapporto sociale e governance, governo dell'azienda, all'inglese naturalmente, però insomma il senso è che bisogna privilegiare quelle attività, quelle aziende, quelle imprese che sono attente all'impatto ambientale della loro produzione, dei loro servizi, della loro modalità di lavoro, sono attente ad avere un rapporto sociale che non significa solo essere presenti sui social network, no, ma direi proprio. Avere proprio un rapporto con la cittadinanza dove operano, gli territorio. Stati, il territorio e così via. E poi la governance, perché non so, adesso la butto lì, se ci sono solo uomini al vertice da sempre, ecco, può darsi che siano solo uomini quelli bravi in quell'azienda, però magari anche no. Cosa dici, Deborah? Esatto, quindi anche un'attenzione alle questioni di genere, un'adeguata attenzione alle questioni di genere è un tema appunto che può premiare l'azienda sulla quale si investe, sulla quale grandi investitori appunto investono. Oggi ne avremo una di società molto proiettata verso questo comparto, avremo anche un collega del Sole 24 Ore che ci racconta come sta andando questo mercato, perché tu pensa che complessivamente gli asset gestiti a livello mondiale da fondi specializzati sono 1.000 miliardi di dollari. Parliamo di un panorama molto consistente, per cui bisogna assolutamente sensibilizzare tutte le persone che ci ascoltano. Nel caso in cui arrivasse anche una proposta di un gestore ad investire in questo comparto, bisogna avere anche in mano gli strumenti giusti per selezionare, perché non vorrei che ci fosse del greenwashing. Ecco, che vuol dire praticamente che vi stanno contrabbandando per una cosa ambientale, qualcosa che insomma di sostenibile magari a molto poco, o che magari stanno usando queste tre letterine ESG così come specchietto per le allodole. Ma avremo ospiti di valore mondiale per discutere, esatto, di questo. Naturalmente i numeri di telefono li abbiamo già dati, no, Deborah. Allora no, ricordiamoli. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire, e poi questo, come sempre il giovedì, è anche il numero al quale dovrete darci la risposta al domandone. 349 238 6666 per inviarci sms o messaggi WhatsApp. Adesso, con il permesso di Gianmarco Ferronato in regia, di Luca Cremonese quest'oggi assegnatomi badante, sì, io andrei con un giornale radio del risparmio. Ta-na-na-na, na-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Scordatelo che la prima la dica io. No, no, no, ma guarda, allora, hai letto, come sempre devi fare religiosamente, le pagine di norme e tributi oggi, allora, su Sole 24 Ore? Ho dato un'occhiata e l'unica cosa che ho capito è che su un provvedimento molto importante, del quale abbiamo parlato, sì, esattamente noi una, bravo, settimana fa qui a Due di Denari, siamo già in ritardo. Stai andando benissimo. Sono partiti a sprombattuto e già ecco che arrivano, no, subito i primi ostacoli. Diciamo che oggi sulla prima pagina di norme e tributi parliamo degli aumenti di capitale che sono stati pensati anche come possibilità di rilancio, di sollievo, di aiuto alle PMI, però nota l'esperto del Sole 24 Ore, Luca Gagliani, dice, fior di esperto, esatto, dice, ma quando è che pensate di varare il provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate? Perché lì ci sono dei click day attraverso i quali viene determinato l'esatto importo del bonus. Allora, insomma, per deliberare, sottoscrivere, versare queste ricapitalizzazioni ormai ci resta poco tempo, perché bisogna fare entro dicembre. Sulla stessa pagina di norme e tributi, la prima della sezione, poi apprenderai che dal 26 settembre sarà in edicola con il Sole 24 Ore le tasse del futuro, perché si sta cominciando a discutere nel dettaglio della riforma fiscale. Allora proponiamo un volume proprio per vedere dove siamo arrivati, quali sono i mali più storici, più evidenti del nostro sistema fiscale, quali potrebbero essere le soluzioni. Raccoglie un dibattito, come sai, che il Sole 24 Ore ha avviato, certo, già da molte settimane. Allora, io invece volevo tornare sulla notizia che l'amico Enrico Pagliarini ha dato in apertura del giornale radio poco fa. Ha parlato dell'andamento delle quotazioni del mercato immobiliare italiano. C'è l'indagine fresca fresca di Istat che ci racconta, per la verità, buone notizie. Ad andare un po' a scandagliare meglio i dati che sono stati diffusi questa mattina, colpisce il fatto che c'è questo aumento, questo ritorno all'aumento delle quotazioni appunto dell'immobiliare italiano. C'è l'aumento più ampio da quando la serie storica elaborata dall'Istat appunto è disponibile. C'è questo rialzo tra il 2 e il 3% appunto delle quotazioni nell'ultimo trimestre considerato. Colpisce che in particolare i prezzi delle abitazioni esistenti è tornato sopra il livello medio del 2015. Stavo pensando, Mauro, non vorrei che fosse un effetto del bonus 110%, perché c'è adesso la ricerca magari di case particolarmente malmesse, proprio per poterle rimettere a nuovo utilizzando questi vantaggi, e quindi ecco che chi è proprietario di immobili che magari stava lì tenuti sul groppone da un sacco di tempo adesso quasi collabenti verrebbe da dire con un termine. Anche questo è il termine che possiamo mettere nella nostra lista di termini astrusi, il collabente finanziario, economico, non so. Sì, sì, che prego. Dicevi? Ecco, no, quindi insomma mi interessa questo tema, sarà il caso di ritornarci anche a Due di Denari, perché effettivamente noi siamo ben contenti che torni un po' di vivacità nel settore immobiliare, perché da un decennio a questa parte insomma era un mercato che viaggiava a rilento. In certe città d'Italia non si vendono case da un decennio almeno, il mercato immobiliare non solo è rallentatore ma è proprio fermo, statico, immobile. L'immobile è immobile, anche questa è l'altra battuta del giorno. Questa ce la teniamo, sì. Per cui insomma è interessante andare a vedere un po' di più, un po' meglio come mai si sta determinando questo riaffacciarsi di attenzione degli italiani verso il settore immobiliare. Forse cercano anche qualche bene rifugio, oltre all'oro e a quelli finanziari diciamo tradizionali, per proteggersi eventualmente da un eventuale caduta di borsa, visto che siamo su livelli molto alti, ma insomma qualche segno di cedimento ogni tanto il mercato lo dà da qualche settimana, e quindi forse una ricerca di protezione. Si ritorna al caro vecchio mattone. Secondo me hai ragione che il 110% sta dando un po' una scintilla al mercato, forse ci sarà, chissà, proprio una riaccendersi degli interessi, e speriamo anche un po' delle quotazioni, perché certo, i proprietari immobiliari, e noi italiani siamo per larga parte proprietari immobiliari, hanno sofferto molto in questi anni. Ma sai, se tu hai magari un po' di soldini da una parte, adesso sei incerto se investirli sui mercati finanziari, hai un immobile che stai magari guardando da un po' di tempo, come dicevo prima, un po' malmesso, trovi una banca disponibile che ti prende tutto il credito d'imposta e quindi ti aiuta ad approfittare di questo vantaggio fiscale, non è che sia proprio una cattiva idea. Sempre che tutto vada bene, perché ti vorrei segnalare che comunque l'arbitro bancario finanziario ci ha dato i risultati del secondo trimestre del 2020 e ci ha segnalato che sono in netto aumento le controversie e i ricorsi sulla cessione del quinto. Il 60% dei ricorsi è sulla cessione del quinto. Per trovare una seconda posizione devi arrivare ai depositi a risparmio e ai buoni fruttiferi postali, che sono però il 14% dei ricorsi presentati all'ABF, l'arbitro bancario finanziario, che, come sai, lo diciamo sempre qui a Due di Denari, è un meccanismo per cercare di risolvere per le vie brevi, verrebbe da dire, qualcosa, qualche contenzioso, senza dover finire per forza in tribunale. L'ultima notizia, senti, la Corte di Giustizia Europea ci rinfresca la memoria su una vicenda che gli ascoltatori temevano noi avessimo abbandonato e accantonato. In realtà aspettavamo una novità di peso da raccontare. Le bollette a 28 giorni finiscono direttamente a Strasburgo, mi pare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia dislocata lì. Lussemburgo, sì, esatto, infatti mi sono sbagliata. No, ero distratta anche dal fatto che un ascoltatore, parlando di borsa che tentenna, mi ha dato già della menagrama, come se questo meno 3 al giorno del Nasdaq non fosse un momentino di correzione da tenere sotto osservazione. Vabbè. Ma in questi giorni c'è stato un po' di nervosismo, però non me lo siamo, no, vabbè, ce lo siamo sognati. Io noi, mi auguro, no? Di no, ma insomma con un grafico verticale della borsa e questa economia sottostante che continua ad essere un pochino precaria, magari qualche momento di stop ogni tanto ci sta. Cosa è successo in Lussemburgo? Cosa è successo? Che allora il Consiglio di Stato ha adito la Corte di Giustizia Europea perché vuole sapere se questo caso delle bollette a 28 giorni in qualche modo lede le indicazioni europee. I giudici hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito alla sussistenza, in capo alle autorità nazionali, del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo contrattuale di fatturazione. Cioè la sostanza della domanda è: scusi giudice europeo, scusi eurogiudice, il nostro governo, il nostro Parlamento possono disporre che temporalità deve avere il rinnovo contrattuale? È una cosa compatibile con la libera concorrenza? All'eurogiudice l'ardua sentenza, verrebbe da dire. Ho fatto pure una rima involontaria. Ma tu sei poeta dentro e fuori e sempre ogni giorno. Peraltro volano gli stracci su questa questione, esattamente come succede un po' tra le Poste e l'antitrust. Sono questioni che ci trasciniamo da tempo e chissà quanto ancora ne dovremo parlare. Però sono le 11:23 quasi. Io direi, caro Mauro, che adesso dobbiamo tirare su la serranda del nostro sportello reclami per poi partire con l'investire informati di oggi. Dillo a Due di Denari.